Voglio. Abbiamo parlato dell'assedio di Bologna in cui si verificò il cosiddetto miracolo del baraccano. Il contesto storico che portò a uno scontro tanto acceso è particolarmente interessante per capire la storia di Bologna dal Medioevo fino all'Ottocento. Era il 1512 e il Papa voleva riappropriarsi della città che considerava di sua proprietà. Una proprietà rivendicata per secoli, secondo una concessione fatta da Carlo Magno, il quale sul finire dell'VIII secolo aveva ceduto a Papa Adriano I parte dei territori che aveva strappato ai Longobardi, tra cui spiccavano Bologna e Ravenna. Nel secolo XI fu la contessa Matilde di Canossa a reggere Bologna per conto del Papa, mentre sappiamo che a partire dal 300 la città dovette fare i conti con legati pontifici del calibro dei famigerati Bertrando del Poggetto e Giovanni da Oleggio. Tuttavia, nonostante la fazione predominante per tutto il Medioevo fosse quella guelfa, le ambizioni comunali, in nome di un ideale di indipendenza, fecero sì che più volte Bologna uscisse dall'orbita pontificia, per poi rientrarci a fasi alterne, fino al XVI secolo, periodo in cui fu annessa definitivamente ai territori dello Stato Pontificio. È logico che il Papa non volesse rinunciare a Bologna, in quanto, oltre a essere una città molto ricca da spremere con imposte sempre più inique, costituiva la porta europea verso la Toscana e quindi verso Roma. La città non si libererà del giogo della tirannia papale fino al Risorgimento. A reggere la città nel 400 per conto del Papa fu formalmente la famiglia Bentivoglio, grazie al quale si affermò anche a Bologna il concetto di signoria cittadina, che ebbe il suo periodo di maggiore splendore in città a partire dal 1464, anno dell'insediamento di Giovanni II Bentivoglio, fino all'inizio del secolo successivo. Teoricamente Giovanni governava la città insieme al legato pontificio. In pratica fu lui l'indiscusso signore di Bologna, almeno finché non ascese al soglio pontificio colui che diventerà il suo più acerrimo nemico, Papa Giulio II, il Papa Terribile, che gli sguinzagliò contro le sue armate. Giovanni II Bentivoglio riuscì in un'impresa fino ad allora considerata impossibile: mantenere un equilibrio tra i poteri forti che minacciavano Bologna da sud, il papato, grazie al trattato firmato dal cugino Sante, e da nord, gli Sforza, succeduti ai Visconti alla guida di Milano, con il matrimonio con Ginevra Sforza, nipote di Francesco. Con lui anche a Bologna si aprì la stagione del Rinascimento, con il fiorire della cultura e delle arti. Scriverà di lui Stendhal: Giovanni II, trovando i bolognesi sensibili al bello, ornò la città di edifici sontuosi, arricchì la sua patria delle più nobili collezioni di statue, di quadri, di manoscritti, di libri. È un trionfo di opere d'arte la chiesa di San Giacomo Maggiore, conosciuta anche come la chiesa dei Bentivoglio, il cui elegante portico fu commissionato da Giovanni a Tommaso Filippi. Nella magnifica cappella Bentivoglio, di ispirazione brunelleschiana, sono presenti la pala Madonna sul trono e i santi Giovanni, Sebastiano, Agostino e Floriano, di Francesco Francia, e il celebre Madonna in trono col bambino e la famiglia Bentivoglio, di Lorenzo Costa. All'interno della chiesa è presente anche uno dei capolavori di Ludovico Carracci, il San Rocco. Fece scalpore nel 1487 lo sfarzoso banchetto organizzato da Giovanni in occasione delle nozze del figlio Annibale II con Lucrezia d'Este. Durò ben 7 ore, dalle 8 di sera alle 3 di notte, e vide il succedersi di 28 portate, con pavoni piumati, fagiani con il becco infuocato, maialini glassati d'oro, un castello di zucchero con dentro uccelli vivi e uno pieno di coniglietti che, quando fu servito, fuggirono via con grande divertimento degli invitati. Tra essi spiccavano Lorenzo il Magnifico e Giovanni Galeazzo Sforza, duca di Milano. Prima di essere servite, le pietanze furono fatte sfilare in piazza per essere ammirate dai cittadini. Si stima che durante il banchetto siano stati bevuti 600 ettolitri di vino e siano stati mangiati 10 quintali di carne. Giovanni II Bentivoglio e sua moglie Ginevra erano insomma degli amanti dello sfarzo. Non a caso il loro palazzo, sontuosa dimora di 244 stanze che sorgeva dove oggi c'è il teatro comunale in via Zamboni, era chiamato Domus Aurea perché i capitelli e i cornicioni della facciata erano ricoperti d'oro. Definito dai contemporanei il più bel palazzo d'Italia, è stato completamente demolito dai nemici dei Bentivoglio dopo la caduta della casata per la damnatio memoriae voluta da Papa Giulio II. Esecutori materiali dello scempio furono i popolani, sobillati da Ercole Morescotti. I ruderi rimasero ammucchiati per oltre un secolo nella stradina, che infatti prese il nome di Via del Guasto. Un frammento del palazzo si trova nella Casa delle Tuate, al civico 6 di Via Galliera. Si tratta di un capitello in marmo, incastrato sul pilastro d'angolo dell'edificio, in cui è possibile leggere l'iscrizione Div Io II P, ovvero Divino Giovanni II, padre della patria. L'equilibrio tra i poteri, abilmente mantenuto da Giovanni II, si rivelò piuttosto precario nel novembre del 1488, quando fu scoperto che i Malvezzi, alleati della famiglia Bentivoglio e principali artefici della sua fortuna, erano a capo di una congiura volta a rovesciare la sua signoria. In maniera sbrigativa e senza alcun processo, Giovanni Malvezzi e gli altri congiurati vennero impiccati all'alba del 28 novembre. A subire le conseguenze del piano fu anche la povera Gentile Budrioli, la più stretta amica di Ginevra Sforza. Sospettata di aver fiancheggiato i cospiratori, venne accusata di stregoneria e bruciata sul rogo. Dietro il gesto c'era sicuramente il tentativo da parte di Giovanni di ingraziarsi il pontefice per dissuaderlo dal reclamare il possesso della città. All'epoca regnava Papa Innocenzo VIII, il fanatico integralista che aveva nominato grande inquisitore di Spagna il sanguinario Tomás de Torquemada. A Innocenzo VIII succedette Alessandro VI, il padre di Lucrezia e Cesare Borgia, con cui Giovanni fu costretto a scendere a patti, cedendo Castel Bolognese al figlio Cesare. Nel 1501 una seconda congiura, questa volta ordita dai Marescotti, a cui seguì una feroce rappresaglia. La signoria di Giovanni Bentivoglio si stava sgretolando, mentre tafferugli e disordini di piazza si moltiplicavano e la città veniva colpita da una carestia e poi, nel 1505, da un terremoto. Fu Papa Giulio II, insediatosi sul soglio pontificio nel 1503, ad approfittare del malcontento che serpeggiava a Bologna per liberarsi dell'ingombrante signoria dei Bentivoglio, che in mezzo secolo di dominio aveva appannato l'autorità pontificia. Costui radunò un esercito imponente con cui marciare alla volta di Bologna, mentre Giovanni II e Ginevra, ormai certi che tutto era perduto, si davano alla fuga. Giulio II entrò trionfalmente a Bologna nel novembre del 1506. Il figlio di Giovanni II Bentivoglio, Annibale II, riuscì a riprendere la città per un breve periodo nel 1511, con il supporto dell'esercito francese di Luigi XII, ottenendo però soltanto di scatenare una nuova offensiva di Giulio II, il quale, miracolo del baraccano o no, riprese questa volta definitivamente il pieno controllo del papato su Bologna. Santa Inquisizione.